appena acquistato il nuovo disco da collezione dei Fattanza Brothers. Il meglio di 10 anni di musica live. In giro per le sale d'Europa. Di autunno quindi buon ascolto. Con questo best day brothers intitolato UFO e Manis su Bologna.